Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Questa è Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali, umani e non. Una trasmissione che va in onda da 8 anni e oggi siamo giunti alla puntata 533 nella quale parleremo di mense scolastiche e pasti vegan, di coronavirus e post-coronavirus e poi di rinoceronti, di picchi, allarmi naturali contro il bracconaggio, aggiornamenti dall'Australia dopo gli incendi di alcuni mesi fa e di trasmissioni televisive che danno un po' di fastidio. Il tutto come sempre verrà squisitamente condito dalla ricetta del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni e accompagnato da un'elegante e ricercata scaletta musicale curata dal geniale Giuseppe Coco. Apriamo la puntata di oggi con una notizia importante che ci mette un po' di buon umore. Come ormai noto, in un numero sempre maggiore di scuole e mense italiane è possibile trovare alternative alla carne scegliendo tra menù vegetariani o menù che rispettano le varie religioni. Mentre sono ancora molte le difficoltà per chi ha deciso di non nutrirsi di nessun tipo di alimento di origine animale. Ma un segnale molto importante arriva proprio in questi giorni dal giudice del lavoro di Bologna, che ha stabilito che un vegano ha diritto in una mensa scolastica ad avere a disposizione alimenti adatti alla sua dieta. Una sentenza storica che sancisce che la scelta vegana deve essere considerata un diritto pari a quello di chi professa una determinata religione e le regole che essa detta. La sentenza è il frutto di un iter avviato da un insegnante che aveva deciso di ricorrere alla giustizia perché si sentiva discriminata, trovandosi in mensa piatti ad hoc per vegetariani o per musulmani, ma niente per i vegani. Dal Corriere della Sera si legge che la maestra aveva preteso un menù consono alle sue convinzioni filosofiche vegane, non tanto, ha spiegato l'insegnante, per non portarsi il cibo da casa, ma per affermare un principio e un diritto. E quando il comune le ha assicurato il servizio, questo non le è bastato e la sua battaglia è andata avanti. Il magistrato ha dunque riconosciuto la fondatezza della sua richiesta in quanto il regime vegano, ha scritto, appare determinato da convinzioni di natura filosofica o religiosa che appaiono meritevoli di tutela nell'ambito di ampio riconoscimento del diritto alla libertà di pensiero, riconosciuto dalla Costituzione italiana. Mentre la fase critica della pandemia di coronavirus non è ancora passata, ci si interroga da qualche tempo e su più fronti sulle relazioni esistenti tra la diffusione di questi tipi di virus, tra le zoonosi, il cambiamento climatico e gli allevamenti intensivi. Di recente alcune trasmissioni televisive stanno provando ad analizzare alcune di queste possibili correlazioni, come Indovina chi viene a cena, condotta da Sabrina Giannini, Sapiens, condotta da Mario Tozzi e non ultima proprio questa settimana Report, con un focus particolare sulla Lombardia, che come sapete è stata la regione più drammaticamente colpita dal virus. Senza entrare nel merito di queste trasmissioni, poiché sfortunatamente non abbiamo molto tempo, quello che ci interessa segnalarvi e la rapidità con cui Giannini e Tozzi e la RAI sono entrati nel mirino dell'industria della carne grazie ad una lettera congiunta di quasi tutte le associazioni del mondo zootecnico italiano, che hanno preso carta e penna per scrivere al direttore di Rai 3, al presidente Rai Marcello Foa e perfino al ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, invitando Rai e conduttori a prestare attenzione, definendo assolutamente fuorvianti i messaggi lanciati. Si legge infatti nella lettera congiunta che è essenziale che la RAI, consapevole del fondamentale ruolo che il servizio pubblico riveste, in particolare in momenti come questo che stiamo vivendo, presti molta attenzione a quei messaggi che, privi di fondamento scientifico, puntano a destabilizzare ulteriormente il fragile equilibrio che regna all'interno delle famiglie italiane. Insomma, un invito non proprio velato a rimettere i remi in barca. Non sono mancate naturalmente le repliche di Mario Tozzi e Sabrina Giannini, due autori che non sono di certo degli sprovveduti. Nelle ultime trasmissioni hanno mostrato collegamenti basati su fatti documentati accompagnati da interventi di esperti e persone del settore che hanno intervistato all'interno dei propri programmi. Vi invitiamo comunque a prendere visione di queste trasmissioni e a farvi anche voi un'idea. When I was out praying in the yard, listening for forever, I dried the carpets out into the sun. Don't you get È il nostro disprezzo per la natura e la nostra mancanza di rispetto per gli animali con cui dovremmo condividere il pianeta che ha causato questa pandemia, qualcosa che era stata prevista molto tempo fa. Poche parole dirette, senza fronzoli, che ancora una volta arrivano e centrano il punto come non mai. A pronunciarle Jane Goodall, primatologa britannica di fama mondiale e conosciuta per la sua ricerca pionieristica in Africa sulla vera natura degli scimpanzé. Durante una teleconferenza in vista dell'uscita del nuovo documentario del National Geographic, Jane Goodall, The Hope, la primatologa ha cercato di spiegare la diffusione del virus in tutto il mondo. Mentre distruggiamo la foresta, spiega Jane Goodall, le diverse specie di animali nella foresta sono costrette a venire in contatto fra loro e quindi le malattie vengono trasmesse da una specie all'altra. Il secondo animale ha quindi maggiori probabilità di infettare gli esseri umani, poiché è costretto a stare a stretto contatto con noi. Goodall accusa sia i mercati africani o asiatici di animali selvatici, ma anche gli allevamenti intensivi di tutto il mondo, in cui raggruppiamo crudelmente miliardi di animali. Queste sono le condizioni, dice Jane Goodall, che creano un'opportunità per il virus di saltare dagli animali attraverso la barriera delle specie verso l'uomo. Insomma, sempre più voci tra ambientalisti, scienziati, giornalisti e ricercatori sollevano il problema degli allevamenti intensivi strettamente correlato alla diffusione di questi tipi di virus. Quanti coronavirus dovremo ancora fronteggiare prima di avviare un cambiamento che non è più possibile rimandare? No time for breezy. No time for arguments. No time for love like now. There's no time in the bardo. No time in the in between. No time for love like. E continuiamo a parlare di coronavirus con il nostro Lorenzo Guadagnucci, che ha curato una particolare rassegna di interventi su pandemia, post-pandemia e questione animale raccolti proprio in questi giorni. Ascolteremo anche un intervento di Moni Ovadia. Sentiamo Lorenzo Guadagnucci. Where did the song begin to change? The lockdown memories can't sustain. It's glistening, hanging free fall. I turned away. L'emergenza coronavirus, come sappiamo, ci ha colto tutti impreparati e ci ha obbligati a cambiare vita, chiudendoci in casa, o quasi, quasi perché circa metà della popolazione italiana in realtà ha continuato a lavorare. Comunque, proprio a causa dello shock, in questo periodo la circolazione delle idee è maggiore del solito e capita facilmente di imbattersi anche nei media ufficiali in riflessioni che cominciano a considerare anche la questione animale come un tema rilevante nell'analizzare le cause di questa emergenza e del contesto nella quale si colloca, ossia l'emergenza climatica. Sono riflessioni che normalmente non compaiono nelle opinioni, negli editoriali e nelle sintesi politiche, perché obbligherebbero a uscire dallo status quo, a immaginare una società diversa, ma proprio per questo ci pare importante proporre qualche spunto preso dai giornali, dalle pubblicazioni delle settimane e dei giorni scorsi. Partiamo da un interessante dialogo pubblicato sul settimanale L'Espresso fra Vladimiro Zagrebelsky, giurista fra i più noti in Italia, e Paolo Vineis, epidemiologo ambientale. Vineis dice, per esempio, che potremmo parlare anche del diritto collettivo a non essere inutilmente esposti a rischi come quelli che originano dalla deforestazione o dagli allevamenti o da produzioni che generano gas serra. Chiedo a Zagrebelsky, dice Vineis, se non si possa considerare questo mutamento di prospettiva nelle Costituzioni. Su questo punto Zagrebelsky replica: la legislazione e soprattutto la giurisprudenza hanno stabilito che nel diritto alla salute è compreso il diritto di vivere in condizioni di salubrità. In questo modo, quello che nella Costituzione è definito un semplice interesse diventa un vero e proprio diritto che può essere fatto valere di fronte a un giudice in vista di risarcimenti o di imposizione di determinati comportamenti virtuosi o di cessazione di altri dannosi. La vicenda dell'Ilva di Taranto è significativa ma limitata rispetto alle esigenze sottolineate dal professor Vineis. Da questo scambio si prospetta quindi un futuro di azioni anche giurisprudenziali piuttosto importante. In un altro passaggio Zagrebelsky allarga il quadro e fa una riflessione, potremmo dire, di tipo strategico-filosofico, e dice così: forse dobbiamo cessare di considerare la Terra un oggetto a nostra illimitata disposizione, dal quale possiamo estrarre tutti i materiali grezzi che desideriamo, che possiamo alterare a piacimento, che non ha una sua vita propria, che può morire trascinando tutto e tutti nel disastro. Anima mundi, dicevano gli antichi, dove anima significa principio, legge, armonia vitale, e mondo significa essere dotato di anima, animato, vivente, essere che può essere in buona salute, ma può anche deperire e perfino morire. Le pandemie non potrebbero forse essere viste come malattie che infettano il grande animale? Da questo punto di vista, potremmo essere noi il virus della Terra, al quale l'animale si sta ribellando. La febbre degli infettati, allora, non sarebbe la malattia, ma, come tutte le febbri, il sintomo fisiologico d'una reazione in corso. Un gruppo di studiosi, storici, giuristi, attivisti ha pubblicato sul quotidiano Manifesto a pagamento un programma per il dopo, 11 punti di cui tenere conto per immaginare non già un ritorno alla normalità, ma una nuova, diversa normalità. Oltre alla richiesta di una nuova centralità per il sistema pubblico, a discapito di quello privato, alla rivendicazione di un sistema sanitario universale di respiro europeo e a maggiori risorse da destinare alla scuola e alla ricerca, in questo programma, al punto 8, si legge che le pandemie non provengono solo dagli animali selvatici. Non occorre andare nella foresta amazzonica per trovare focolai di future possibili pandemie. Gli allevamenti intensivi degli animali nei nostri territori e nelle nostre stalle, che inquinano terre e acque e alterano il clima, hanno già causato migliaia di morti, oltre che ingenti danni economici. La BSE, la salmonella di T104, l'Escherichia coli 0157, eccetera. Solo il caso oggi ci difende dal passaggio all'uomo delle innumerevoli malattie che spesso devastano questi allevamenti. E al punto 9, occorre perciò cambiare la politica agricola comunitaria che oggi finanzia le agricolture industriali e i grandi allevamenti inquinanti, mentre distribuisce briciole ai contadini e nulla fa per proteggere i braccianti migranti, sfruttati come schiavi. senza i quali nessun prodotto arriverebbe sulle nostre tavole. Ma occorre anche diffondere una nuova cultura alimentare che limiti il consumo della carne, da considerare nociva per la salute nella situazione attuale. Dalla lettura, l'inserto culturale settimanale del Corriere della Sera, merita di essere segnalata una bella intervista con Nicholas Money, professore di biologia negli Stati Uniti, autore di un libro da poco uscito in Italia, La scimmia egoista, pubblicato da Il Saggiatore. L'intervista, firmata da Federica Colonna, si intitola L'Homo Narcissus corre verso la rovina. L'intervistatrice domanda: lei scrive che il concetto di un universo fatto apposta per noi rivela la nostra strabiliante arroganza. Come possiamo superare un'idea così radicata? Money risponde: è proprio qui che entra in gioco il punto di vista oggettivo della scienza. Dobbiamo osservare noi stessi senza preconcetti e considerare i nostri comportamenti alla stregua di quelli degli altri animali. Guardiamoci in faccia, ci sopravvalutiamo. Siamo le vittime di un ragionamento circolare. Diciamo di essere così intelligenti e saggi perché siamo gli unici ad avere sviluppato, per esempio, sistemi politici o fedi religiose, ma siamo anche gli unici ad attribuire importanza alla politica e alla religione. Proviamo a considerarci per quello che davvero siamo, parte della natura, circondati dalla natura, immersi nella natura. E ancora la domanda: anche la scienza però ci rende narcisi, dà molto credito all'uomo e alle sue abilità intellettive. E la risposta di Mone: è questa la tragedia della condizione umana. La scienza ci ha donato una capacità di comprensione della natura senza pari. Ed è questa una delle ragioni per cui abbiamo chiamato noi stessi Homo sapiens. La scienza, inoltre, ci ha permesso di sviluppare la tecnologia, ma così, modificando l'ambiente, abbiamo danneggiato un meccanismo delicato. C'è una sorta di yin e yang in questo. La scienza ci ha reso potenti, ma allo stesso tempo ci ha condannato all'estinzione. La scienza è un'arma a doppio taglio. Ci ha reso straordinari, ma ci ha condotti alla rovina. Chiudiamo proponendovi un breve spezzone audio di un'intervista con Moni Ovadia realizzata da Alberto Pugnetti e Fiorella Pierobon per Radio Francigena, la web radio dei cammini, che è fra le emittenti che mettono in onda Restiamo Animali. In questo brano l'attore, regista, musicista, scrittore parla della violenza, la violenza sugli animali in particolare. La registrazione integrale dell'intervista con Moni Ovadia è disponibile sul sito di Radio Francigena, www.radiofrancigena.com, nella sezione Io resto a casa. Ascoltiamo. Tu hai toccato l'argomento di Papa Francesco, cioè lui effettivamente ha sviscerato tutte queste problematiche, no? Laudato Unico. Sì, è un documento formidabile ed è un documento, io credo che sia un'enciclica sociale ed ecologica, le due cose non sono disgiunte, certo. Perché solo in un sistema di equità sociale è possibile costruire una relazione armonica con l'ambiente, e poi bisogna bandire dall'orizzonte umano la violenza, e la violenza non è solo quella che esercitiamo fra di noi, ma per esempio quella nei confronti degli animali, Altro che è qualcosa di osceno, di disgustoso e ripugnante, che è sotto i nostri occhi, dagli allevamenti intensivi al sadismo una puro vergogna, nei confronti, sì. No? È una grande vergogna. E quindi ecco, lui è riuscito a dare una sintesi davvero di valore molto significativo anche per i non credenti, non c'è bisogno di essere credente per aderire alla visione e allo sguardo che ha Papa Francesco in quell'enciclica. Thank you. Kreuz wenn ich behüte wie Auschwitz mein Dank Treblinka o wie Schore machen neu Amonio Vadia è ispirata alla ricetta di oggi, curata come sempre dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile. E vi ricordiamo che tutte le ricette, così come le puntate, sono riascoltabili in podcast sul sito www.restiamoanimali.it. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ho avuto la piacevole occasione di conoscere personalmente Monio Vadia alcuni anni fa in occasione di un congresso sulla non violenza. Perciò oggi sono doppiamente onorato di rendergli omaggio con la ricetta degli Amantashen, conosciuti da noi con il nome di orecchie di Aman, dolcetti tradizionali ebraici di pasta frolla a forma triangolare e farciti con della marmellata. Gli ingredienti per 30 biscotti circa sono 350 g di farina tipo 0, 70 g di olio di semi di girasole, 60 g di olio di oliva, 110 g di zucchero di canna, 80 ml di latte vegetale, la scorza di un'arancia grattugiata, della vaniglia, un pizzico di curcuma in polvere, 5 g di crema or tartaro e un pizzico di sale. Per la farcia, della marmellata di prugne e un pizzico di cannella in polvere. In una ciotola lavorate tutti gli ingredienti escluso la marmellata, la cannella e una piccola parte di scorza di arancio che utilizzerete per il ripieno. Lavorate rapidamente in modo che la pasta rimanga friabile. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, avvolgete con la pellicola e fate riposare almeno 30 minuti in frigorifero. Intanto unite la cannella alla marmellata di prugne e, se lo gradite, un po' di scorza di arancio grattugiata. Una volta trascorso il tempo di riposo, prendete la frolla e stendetela col mattarello su una spianatoia infarinata. Stendete ad uno spessore di circa 8 mm e con un coppa pasta o con un bicchiere ricavate dei dischi di 7 cm di diametro circa. Disponete un cucchiaino di marmellata al centro di ogni disco e richiudete a triangolo facendo pressione agli angoli. La marmellata dovrà rimanere ben in vista al centro. Adagiate i dolcetti su una teglia con carta forno e cuocete a 180 gradi per circa 15 minuti, fino a quando saranno ben dorati. Lasciate raffreddare bene prima di servire. Up in the sky, there is a village, and the people there are blue, I believe it's true, up in the sky. Driven plane, you can fly above the rain, up in the sky, you just feel fine, there is no running out of time, and you never cross the line, I never want to die, I wanna live in the sky, up in the sky, you can fly, you will make it if you... Sulla stampa.it apprendiamo la notizia che da quando il 23 marzo scorso il Sudafrica ha annunciato un blocco nazionale del turismo per limitare la diffusione del nuovo coronavirus, c'è qualcuno che ha visto in questa limitazione un'opportunità per incrementare la propria attività illegale. Nelle ultime settimane, infatti, il numero di casi di bracconaggio ai danni dei rinoceronti si è intensificato in maniera preoccupante. Secondo Nico Jacobs, fondatore di Rino 911, un'organizzazione no profit che interviene a sostegno dei rinoceronti, non appena il blocco ha colpito il Sudafrica, si legge, abbiamo iniziato ad avere un'incursione quasi ogni singolo giorno. Almeno 9 rinoceronti sono stati uccisi nella provincia nord-occidentale del Sudafrica dal momento del blocco, ha raccontato appunto Jacobs al New York Times, e questi sono solo quelli che conosciamo. Sempre a proposito di rinoceronti, un interessante studio condotto da un team di ricercatori della Victoria University in Australia ha rivelato una particolare collaborazione interspecifica. Pare infatti che i bupagus, uccelli che vivono appollaiati sul dorso dei rinoceronti neri, nutrendosi delle loro zecche, giocherebbero un ruolo fondamentale per la loro sopravvivenza, in quanto sarebbero in grado di avvertirli della presenza di eventuali nemici o predatori. Si tratterebbe di un particolare tipo di picchio che andrebbe in soccorso di questi giganti e che sono sempre più a rischio di estinzione. Sulla base del nostro studio, spiega il team di ricercatori, potrebbe emergere il suggerimento di reintrodurre l'uccello nelle popolazioni di rinoceronti per favorire la salvaguardia della specie. Non sappiamo ancora se una manovra di questo tipo ridurrebbe la caccia, ma sicuramente gli uccelli permetterebbero ai mammiferi di anticipare le minacce, il che potrebbe rappresentare un grande vantaggio, concludono i ricercatori. Your molecular structure is really something fine. A first-rate example of functional design. Those cosmic undulations are steady coming through. Your molecular structure, baby, me and you. Chiudiamo la puntata così come abbiamo aperto, ovvero con una buona notizia. Chi non si ricorda le drammatiche immagini degli animali in fuga in seguito agli incendi diffusosi in Australia alcuni mesi fa? Spente le fiamme e spenti i riflettori su una tragedia di proporzioni immani, un piccolo segnale di ripresa sta arrivando da quelle terre devastate. Governo e cittadini avevano lanciato una grande campagna per piantare migliaia di alberi e anche le politiche e gli aiuti destinati alla fauna selvatica stanno dando qualche piccolo frutto, con decine di koala e canguri, che come sapete sono due delle specie più colpite, che stanno tornando a casa. Li abbiamo salvati dalle fiamme, curati e protetti, ma solo adesso ci sono abbastanza alberi e cibo per permettergli di liberarli, ha detto un veterinario che lavora in un ospedale per animali, e credo che il loro numero aumenterà presto. Segnale di speranza, noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana con la redazione di Restiamo Animali, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 534 di Restiamo Animali tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.